Alle scuderie del Quirinale di Roma, il Museo Universale, dal sogno di Napoleone a Canova. Una grande mostra per rievocare l'avventuroso recupero dei capolavori italiani dalla Francia. Raffaello, Tiziano, Guido Reni. Fino al 12 marzo, scuderiequirinale.it. Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Jane Eyre di Charlotte Bronte. Traduzione di Monica Pareschi. La signora Reed aveva tracciato una linea di demarcazione ancora più netta tra me e i suoi figli, destinandomi uno stanzino minuscolo per farmi dormire separata dagli altri, condannandomi a mangiare da sola e a passare tutto il tempo nella stanza dei bambini, mentre i miei cugini erano sempre in salotto. Elisa e Georgiana, evidentemente obbedendo ai suoi ordini, mi rivolgevano la parola il meno possibile. John mi faceva le boccacce ogni volta che mi incontrava e in un'occasione cercò di picchiarmi. Ma quando gli risi prontamente pan per focaccia, scossa dallo stesso sentimento di collera selvaggia e disperata ribellione che già una volta mi aveva resa preda dei miei più bassi istinti, pensò bene di desistere e se la diede a gambe, imprecando e accusandomi di avergli rotto il naso. In effetti, avevo assestato a quella protuberanza il colpo più forte di cui fossero capaci le mie nocche. E quando lo vidi scoraggiato dal pugno, o forse dal mio sguardo, ebbi la tentazione di approfittare del vantaggio fino in fondo, ma lui era già corso dalla mamma. Lo sentii frignare riferendo che quella cattiva di Jane Eyre gli era saltata addosso come un gatto selvatico, ma la madre tagliò corto: non me la nominare nemmeno, John. Ti ho già detto di non avvicinarti a lei, non merita la nostra attenzione, non voglio assolutamente che tu o le tue sorelle abbiate a che fare con lei. A quel punto, sporgendomi dalla balaustra, mi misi improvvisamente a urlare senza pensare affatto a quello che stavo dicendo. Sono loro che non sono degni di avere a che fare con me. La signora Reed era una donna piuttosto robusta, ma sentendo questa insolita quanto audace dichiarazione, corse lesta su per le scale, trascinandomi come un turbine nella stanza dei bambini, dove mi spinse a sedere sul bordo del mio lettino e mi diffidò in tono categorico dal muovermi di lì o pronunciare anche una sola sillaba per il resto della giornata. Cosa direbbe lo zio Reed se fosse vivo? Fu la mia quasi involontaria domanda. Dico quasi involontaria perché era come se la mia lingua pronunciasse parole al di là della mia volontà. Mi uscivano senza che io potessi controllarle. Come? Bisbigliò la signora Reed quasi afona. Gli occhi grigi sembrarono per un attimo stravolti dal terrore. Mi lasciò andare il braccio e mi fissò, quasi non sapesse decidere se era una bambina o un demonio, ma ormai ero inarrestabile. Mio zio Rida è in cielo e vede tutto quello che fate e che pensate. E anche mamma e papà lo sanno che mi tenete rinchiusa tutto il giorno e che mi vorreste morta. Presto la signora Reed si riprese e dopo avermi scrollata vigorosamente mi schiaffeggiò su entrambe le guance e se ne andò senza una parola. Bessie riempì il vuoto con una predica di un'ora buona durante la quale mi dimostrò senza possibilità di dubbio che ero la bambina più malvagia e sfrontata che ci fosse al mondo. Fui sul punto di crederle, perché in effetti, in quel momento, non avevo che cattivi sentimenti a colmarmi il petto. E così passarono novembre, dicembre, metà gennaio. Era il 15 di gennaio ed erano circa le 9 del mattino. Bessie era scesa a fare colazione e i miei cugini non erano ancora stati chiamati dalla mamma. Elisa si stava mettendo la cuffia e il soprabito pesante per andare in giardino a dar da mangiare ai suoi polli. Un'occupazione che adorava, come anche vendere le uova alla governante e mettere da parte i soldi così guadagnati. Aveva il bernoccolo degli affari e una spiccata tendenza al risparmio, che si manifestava non solo nella vendita delle uova e dei polli, ma anche nelle dure trattative col giardiniere per la vendita di radici, sementi, innesti. Elisa si sarebbe venduta anche i capelli che aveva in testa pur di ricavarne un buon profitto. Quanto al denaro, prima lo nascondeva in qualche angolo recondito, avvolto in uno strofinaccio o in un vecchio bigodino di carta. Ma poiché alcuni di questi tesori erano stati scoperti dalla domestica, Elisa, temendo di perdere un giorno il prezioso bottino, acconsentì ad affidarlo alla madre a un tasso di interesse da strozzino, il 50-60%, che la bambina riscuoteva ogni trimestre, segnando tutto in un libricino con precisione ossessiva. Giorgiana era seduta su un alto sgabello, intenta ad acconciarsi i capelli davanti allo specchio, intrecciando ai suoi ricci fiori artificiali e piume sbiadite, di cui aveva trovato una riserva in un cassetto in soffitta. Io mi stavo rifacendo il letto, obbedendo agli ordini precisi di Bessie, che mi aveva intimato di sistemarlo prima del suo ritorno. Perché Bessie ora mi utilizzava spesso come una specie di assistente cameriera per riordinare la stanza dei bambini, spolverare le sedie e così via. Dopo aver steso per bene la trapunta e piegato la mia camicia da notte, mi avvicinai al sedile sotto la finestra per raccogliere alcuni libri illustrati e pezzi di mobili appartenenti alla casa delle bambole sparsi qua e là. Mi stavo appunto accingendo a farlo quando Giorgiana mi ingiunse bruscamente di lasciar stare i suoi giocattoli, perché le seggioline e gli specchietti, le tazzine e i piattini fatati erano di sua proprietà. A quel punto, in mancanza d'altro da fare, mi misi a soffiare sulle incrostazioni ghiacciate che ornavano i vetri della finestra, liberando così uno spazio attraverso cui poter guardare fuori, dove tutto era immobile e pietrificato per effetto della forte gelata. Da quella finestra si vedevano la casetta del custode e il viale d'accesso, e quando riuscii a sciogliere abbastanza di quelle frappe bianco-argente che appannavano i vetri e avere spazio per guardar fuori, vidi cancelli spalancati e una carrozza che si avvicinava. La osservai risalire il viale con indifferenza. A Gateshead le carrozze arrivavano spesso, ma non accadeva mai che portassero qualcuno di interessante dal mio punto di vista. Si fermò di fronte alla casa, si udì il trillo del campanello e il nuovo arrivato fu fatto entrare. Dal momento che tutto ciò non significava nulla per me, la mia attenzione fluttuante fu presto attratta dallo spettacolo assai più vivido di un piccolo pettirosso affamato che si posò a cinguettare sui rami spogli del ciliegio inchiodato al muro vicino al telaio della finestra. Sul tavolo c'erano i resti del pane e latte che avevo mangiato a colazione, e dopo aver sbriciolato un pezzetto di pane stavo cercando di sollevare il vetro per mettere le briciole sul davanzale quando Bessie salì di corsa nella stanza dei bambini. «Signorina Jane, levatevi il grembiule! Cosa ci fate lì? Vi siete lavate la faccia e le mani stamattina?» Prima di rispondere diedi un altro strattone, perché volevo assicurare all'uccello il suo pane. Il telaio cedette, sparsi le briciole, una parte sul davanzale, il resto sul ramo del ciliegio, poi chiudendo la finestra risposi: «No, Bessie, ho appena finito di spolverare». «Ah, che bambina difficile e negligente! E adesso cosa fate? Siete tutta rossa, stavate forse combinando una marachella? Perché avete aperto la finestra?» Non dovetti neppure scomodarmi a rispondere, perché a quanto pare Bessie era troppo di fretta per ascoltare spiegazioni. Mi trascinò verso il catino e lì, senza tante cerimonie, mi strigliò a dovere con acqua e sapone uno strofinaccio ruvido, grazie al cielo per poco. Mi domò la chioma con una spazzola dura, mi strappò di dosso il grembiule e infine, spingendomi verso le scale, mi disse di scendere subito perché ero attesa nella saletta della colazione. Avrei voluto chiedere chi mi desiderava e se c'era anche la signora Reed, ma Bessie era già sparita, dopo avermi chiuso in faccia la porta della stanza dei bambini. Scesi lentamente le scale. Da quasi 3 mesi non ero ammessa alla presenza della signora Reed. Confinata per tanto tempo nella stanza dei bambini, la sala da pranzo, quella della colazione, i salotti, erano diventati ai miei occhi regioni spaventose e l'idea di mettervi piede mi sgomentava. Mi fermai nell'atrio deserto. Davanti a me avevo la porta della saletta della colazione e mi bloccai, tremante e impaurita. Che piccola, miserabile codarda mi aveva reso in quei giorni il terrore di essere ingiustamente punita. Non osavo tornare al piano di sopra e nemmeno osavo entrare. Rimasi lì per 10 minuti, esitante e in preda all'agitazione. Fu lo squillo imperioso del campanello nella stanza a farmi decidere. Dovevo entrare. Chi mi vorrà? Mi domandavo mentre giravo con entrambe le mani la maniglia rigida che per un paio di secondi resistetti ai miei sforzi. Chi ci sarà qui dentro, a parte la signora zia? Un uomo o una donna? La maniglia girò, la porta si schiuse e dopo aver varcato la soglia con una profonda riverenza, alzai gli occhi e vidi una colonna nera. O almeno tale mi sembrò a prima vista, la sagoma dritta, stretta, rivestita di nero che si ergeva sul tappeto. La faccia truce in cima pareva una maschera intagliata messa lì a mo' di capitello. La signora Reed era seduta al solito posto, accanto al caminetto. Mi fece cenno di entrare. Io obbedii e lei mi presentò allo sconosciuto di pietra con queste parole: «Questa è la bambina di cui vi ho parlato». Costui, poiché in effetti era un uomo, volse lentamente la testa verso di me e dopo avermi esaminata con due perforanti occhi grigi che scintillavano sotto un paio di folte sopracciglia, disse gravemente: «È piccola. Quanti anni ha?» 10. «Davvero?» rispose lui dubbioso e continuò a esaminarmi attentamente per qualche minuto. Di lì a poco si rivolse a me: «Il vostro nome, bambina?» «Jane Eyre, signore». Pronunciando quelle parole alzai gli occhi. Mi sembrò un uomo alto, ma ero molto piccola allora. Aveva i lineamenti marcati, arcigni e compassati come il resto della sua persona. «Bene, Jane Eyre. E siete una brava bambina?» Impossibile dare una risposta affermativa. Il piccolo mondo intorno a me era di tutt'altro avviso. Rimasi in silenzio. Rispose la signora Reed al mio posto con un'eloquente scrollata di capo, aggiungendo subito: «Forse è meglio stendere un velo pietoso sull'argomento, signor Brocklehurst. Sono davvero desolato di sentire una cosa del genere. Bisogna proprio che le faccia un discorsetto». E, rinunciando alla sua perpendicolarità, si installò nella poltrona di fronte alla signora Reed. «Avvicinatevi», disse. Feci qualche passo sul tappeto. Lui mi mise dritta davanti a sé. Che faccia aveva adesso che era quasi a livello della mia? Che naso enorme, e che bocca, e che denti grossi e sporgenti. «Non c'è spettacolo più triste di un bambino cattivo», cominciò, «e ancor peggio di una bambina cattiva. Lo sapete dove vanno a finire i cattivi quando muoiono?» «All'inferno», fu la mia risposta pronta e ortodossa. «E cos'è l'inferno, lo sapete?» «Un abisso di fuoco. E a voi piacerebbe cadere in quell'abisso e rimanervi a bruciare per sempre?» «No, signore. E cosa dovete fare per evitarlo?» Riflettei un attimo. La mia risposta, quando venne, era opinabile. «Devo rimanere sana, così non muoio». «E come fate a rimanere sana? Ci sono bambini più piccoli di voi che muoiono tutti i giorni. Solo un paio di giorni fa ho seppellito un bambino di 5 anni e adesso la sua anima è in cielo. C'è da temere che non si potrebbe dire lo stesso di voi se foste chiamata all'altro mondo». non essendo in condizioni di fugare i suoi dubbi, mi limitai a chinare gli occhi sui due piedoni piantati sul tappeto e sospirai desiderando di trovarmi da tutt'altra parte. Spero che quel sospiro vi venga dal cuore e che vi pentiate di aver creato tanto disagio alla vostra eccellente benefattrice. Benefattrice, benefattrice, ripetei dentro di me. Tutti dicono che la signora Reed è la mia benefattrice, ma se è così, una benefattrice è una cosa ben brutta. Dite le preghiere mattina e sera? Continuò il mio inquisitore. Sì, signore. E la Bibbia la leggete? Ogni tanto. Con piacere? Vi appassiona? Mi piacciono l'Apocalisse e il libro di Daniele e la Genesi e Samuele e un pezzo dell'Esodo e anche qualche parte dei Re e delle Cronache. Poi Giobbe e Giona. E i Salmi? Spero che vi piacciano anche quelli. No, signore. No? Ah, ma è inaudito! Io ho un bambino più piccolo di voi che conosce 6 salmi a memoria e quando gli chiedono se preferisce mangiare un pezzetto di pan pepato o imparare il versetto di un salmo, dice: oh, il versetto di un salmo, gli angeli cantano i salmi, e poi aggiunge: io voglio essere un angioletto qua giù. E così per ricompensa riceve 2 pezzi di pan pepato questo bambino così devoto. I salmi non sono molto interessanti, osservai. Questa è la dimostrazione che avete un cuore malvagio e dovete pregare Dio di cambiarvelo e di concedervene un altro più puro, di strapparvi il vostro cuore di pietra e darvene uno di carne. Stavo per porre una domanda riguardo al modo in cui si sarebbe svolta l'operazione per cambiarmi il cuore, quando si intromise la signora Reed ordinandomi di sedermi, dopodiché fu lei a continuare la conversazione. Signor Brocklehurst, credo di avervi lasciato intendere nella lettera che vi scrissi 3 settimane fa che questa bambina non ha certo l'indole e il temperamento che potrei desiderare. Se decideste di ammetterla al collegio di Lowood, sarei felice se si chiedesse alla direttrice e alle insegnanti di tenerla d'occhio e soprattutto di tenere a freno il suo peggior difetto, la falsità di fondo. Lo dico davanti a voi, Jane, perché non proviate a ingannare anche il signor Brocklehurst. Avevo tutti i miei motivi per temere e detestare la signora Reed. Ferirmi crudelmente le veniva naturale. E in sua presenza ero sempre infelice. Per quanto stessi attenta a obbedirle, per quanto tentassi in ogni modo di compiacerla, i miei sforzi erano sempre vani e venivano ripagati con frasi del genere. Ora, pronunciata davanti a un estraneo, l'accusa fu una stilettata al cuore. Ebbi l'oscura sensazione che stesse già cancellando ogni speranza dalla nuova fase dell'esistenza che mi aveva destinato. Sentivo, anche se non sarei stata in grado di esprimerlo, che stava spargendo sul mio futuro cammino i semi dell'ostilità e dell'avversione. Mi vidi trasformata sotto gli occhi del signor Brocklehurst in una piccola intrigante perniciosa. Ma cosa potevo fare per rimediare al torto? Proprio nulla, pensai, cercando di soffocare un singhiozzo, e mi asciugai in fretta le lacrime che erano la prova evidente della mia angoscia. La falsità è davvero un difetto terribile in un bambino, disse il signor Brocklehurst. È parente della menzogna e i bugiardi avranno tutti la loro parte nel lago dove brucia il fuoco eterno. Tuttavia la terremo d'occhio, signora Reed. Parlerò io con la signorina Temple e le insegnanti. Desidero che venga educata in conformità con le aspettative che potrà avere in futuro, continuò la mia benefattrice, che impari a rendersi utile e a essere umile.